Io questo posto lo conosco da tempo, eppure è la prima volta che ci vengo. Io qui ci sono già stato, ti dico io qui ci ho vissuto. È come se lo avessi sognato, è come se ci fossi già stato. A volte mi capita spesso di essere stato in un posto. Conosco il profumo di questo bosco, che strano, è proprio lo stesso. Conosco la strada qui a fianco, è pure la prima volta che ci vengo. Io qui mi sono già visto, ero seduto con te come adesso. Credimi, a volte ci si trova in un posto, ma è come se fosse già stato nostro. Come se il tempo parlasse e ci indicasse la strada del forse. Come una statua di bronzo che ci propulsa in un altro mondo. Forse è la nostra divisione, forse un'altra dimensione, forse sono gli angeli che ci parlano e ci indicano la direzione. L'uomo è paranormale, il normale non è normale, ha mille mondi da esplorare, siamo all'origine di un nuovo scoprire. Il mondo ci appartiene, il mondo ci apre frontiere, dobbiamo solo ritrovare la nostra vera dimensione, dobbiamo recuperare tutto il nostro avere, esseri siamo una voce, figli del vento, figli della luce. Il corpo è solo una scatola, di dentro la nostra pellicola, un film da montare le scale, una storia da illuminare. Basta solo seguire, basta solo sognare, chiudere gli occhi e volare, puri come uccelli sul mare, liberi di ogni inutile scoria, liberi di ogni materia, liberi come l'aria, noi costruiamo la nostra memoria. L'uomo è paranormale, il normale non è normale, ha mille mondi da esplorare, siamo all'origine di un nuovo scoprire. Il mondo ci appartiene, il mondo ci apre frontiere, dobbiamo solo ritrovare la nostra vera dimensione, dobbiamo recuperare tutto il nostro avere. Esseri siamo una voce, figli del vento, figli della luce.